non ci saranno sorprese, sarà un voto farsa, evidentemente il Sisi è pronto a essere rieletto per la terza volta. Nel 2019 c'è stato un referendum costituzionale che gli ha permesso di essere rieletto ancora una volta e quindi questo sarà probabilmente il suo terzo mandato. Significa che si spiana la strada per il Sisi di restare al potere senza opposizioni oltre il 2030. Fino a questo momento le notizie sono di una bassa affluenza alle urne, in Egitto ci sono sempre state basse affluenze nelle ultime due tornate elettorali che hanno confermato al Sisi, ci sono notizie di pacchi di olio, farina, riso che vengono dati agli elettori per spingerli ad andare a votare, così come notizie di elettricità che funziona al 100% a tutte le ore, mentre normalmente ci sono vari blackout in alcune città del paese proprio per la mancanza di energia e di gas che dovrebbe arrivare da Israele dopo lo scoppio della guerra del 7 ottobre, quindi evidentemente tutto è pronto per favorire il voto, per favorire l'affluenza. Si è votato anche nelle capitali straniere dove ci sono molti egiziani, importanti comunità egiziane nelle ultime settimane, quindi evidentemente tutto è pronto per sancire una nuova vittoria del faraone. Quello che si può aggiungere è che questa campagna elettorale è stata segnata da una parte dalla cancellazione di qualsiasi candidato di opposizione, uno tra questi è Ahmed Tantawi che voleva partecipare al voto ma non ha raggiunto 25.000 firme, un po' un pretesto per dire che nessuna candidatura di opposizione era gradita in questa tornata elettorale, addirittura la sua campagna elettorale ha denunciato oltre 80 arresti, ci sono state accuse di hackeraggio del suo cellulare con lo spyware Predator, e tutti gli altri tre candidati invece che sono stati ammessi al voto sono candidati pro Sisi, quindi che fanno parte della galassia di chi lo sostiene, quindi evidentemente saranno ben felici di concedere la vittoria con oltre il 97% dei voti, molto probabilmente quello che è successo nel 2014 nel voto successivo, e quindi di aprire la strada a questa farsa elettorale che sancisce di nuovo il regno di Al-Sisi. La seconda cosa che ha segnato questo voto è la guerra tra Israele e Hamas, perché evidentemente Al-Sisi si è espresso contro la possibilità che i palestinesi di Gaza, da Gaza Sud, entrassero nel Sinai. Questo ha comportato anche che il varico di Rafah è stato chiuso e questo non ha permesso anche ai feriti, ai profughi palestinesi che ne avevano bisogno di arrivare in Egitto, soltanto poche centinaia di palestinesi con doppio passaporto sono potuti arrivare in Egitto. Poi Al-Sisi ha anche dichiarato che i palestinesi di Gaza potevano benissimo essere trasferiti nel deserto del Negev e non ad Al-Arish o nella penisola del Sinai. Questo evidentemente è un qualcosa che ha galvanizzato molto gli egiziani, che da una parte hanno un sentimento anti-Hamas molto forte e considerano Hamas come un sinonimo dei palestinesi in generale, accusano questo gruppo di essere affiliato ai Fratelli Musulmani e quindi di terrorismo, evidentemente per questo non ci sono state negli ultimi anni le grandi mobilitazioni pro-Palestina a cui l'Egitto era abituato nel 2000 e nel 2003. Però dall'altra parte adesso questa presa di posizione di Al-Sisi ha favorito anche la partecipazione alle mobilitazioni di suoi sostenitori, quindi ci sono state importanti manifestazioni il 13 ottobre, il 20 ottobre, alcune di queste erano organizzate dalla sinistra, dai socialisti rivoluzionari e sono andati fino a Piazza Tahrir, altre erano organizzate dai sostenitori di Al-Sisi, quindi Al-Sisi si può dire che ha anche fatto leva su questo sentimento, sfruttando, manipolando la questione palestinese per favorire la partecipazione al voto e mostrarsi come un eroe. Alcuni addirittura dicono che in fin dei conti potrebbe anche concedere ad alcuni palestinesi, magari 100.000, di arrivare ad Al-Arish e di permettere loro di entrare nella zona cuscinetto che ha creato dopo il 2014. Al di là di queste questioni, che sono ovviamente rilevanti, l'Egitto sta attraversando una crisi economica, giusto? L'Egitto si trova ad affrontare una delle più gravi crisi economiche della sua storia recente. Era stato abituato ad un periodo di crescita, con una crescita del 6,7% nel 2022, ora questa crescita si è dimezzata e non solo, c'è un'inflazione galoppante, c'è una crisi valutaria, c'è proprio mancanza di liquidità in dollari. Tutto questo ha provocato chiaramente dei problemi che sono direttamente legati a questioni legate alla disoccupazione e alla richiesta del prestito del Fondo Monetario Internazionale di 3 miliardi di dollari che dovrebbe arrivare, ma arriverà soltanto se l'Egitto farà i soliti tagli alla spesa pubblica, anche legati al fatto che c'è una crisi del debito in Egitto gravissima. Quindi è evidente che c'è un contesto economico-finanziario molto difficile, che però viene gestito dalla Sisi con opere faraoniche. Sappiamo che c'è in corso la realizzazione della capitale satellite nel deserto per un valore di 58 miliardi di dollari e tutto questo tipo di impostazione che presenta l'esercito come modernizzatore. Pensiamo anche all'estensione del canale di Suez, nonostante poi il canale sia stato bloccato le navi nel 2021, tutto questo fa capire che c'è una facciata che si vuole mostrare come moderna, come aperta al cambiamento, e dall'altro l'altra invece un paese in profonda crisi economica.